Popolare Network, sono le 14:32 minuti tra Milano e Genova, con in studio Piero Scaramucci, Silvia Giacomini e Lorenza Ghidini. Ci sono quindi gruppuscoli in giro per la città che tengono ancora piuttosto alta la tensione, però poi insomma abbiamo anche tante piazze dove, dai Cobas alle Tute Bianche, che per il momento stanno percorrendo la via verso 20 settembre. Andiamo a parlare con Lorenzo Valera, che è con loro e ci dirà a che punto sono nella loro strada verso la zona rossa. Lorenzo? Allora sì, noi ci troviamo in via Gastaldi, che è la via che porta direttamente alla stazione Brignole e poi da lì verso proprio la zona rossa. In questo momento la grande preoccupazione di chi ha organizzato questo corteo è quello di renderlo il più impermeabile possibile all'inserimento di elementi esterni che potrebbero in qualche modo cercare di rovinare le cose. Infatti è già capitato più volte che dalla testa del corteo cercassero di filtrarsi persone armate di bastoni, spranghe e quant'altro, anche pezzi di coccio raccolti qua e là, e sono stati subito fermati e allontanati. In questo corteo è stato detto fin da subito, fin dalla partenza, non sono consentite nessun tipo di armi o di oggetti che possano essere considerati oggetti di offesa, ma soltanto di difesa. E quando si sono visti arrivare questi 4-5 con i volti coperti, appunto armati di manici di scopa, spranghe, sono partiti immediatamente dal corteo un buon numero di persone e gli hanno detto in pratica se volevano partecipare al corteo lo avrebbero fatto senza spranghe. D'accordo che queste cattate qua vanno messe via. Allora voi che venite via e allora buono, ma senza storia ce andiamo ragazzi, facciamo passare qua. Sì, andiamo in coda al corteo, lasciamo la palla, lasciamo le mazze, non è un problema. Ma ce l'ha noi quella roba, ci pensiamo noi. Ma vale piano, possono rompere, ma dove? Come cazzo sta qua? Allora, come cazzo? Via corteo. Allora, vedete, ve ne andate via con questo. Andate avanti con gli scontri. Ma facciamo mollare i bastoni? No, ragazzi! Mollateli! Non ci diamo il corteo! Mettiamo sti cazzi! Ma andiamo via allora! Che cazzo vuol dire? Ce ne andiamo via allora! Che cazzo andiamo là? Allora ragazzi, non dovevamo neanche venire! Porco Dio! Stiamo entrando nel loro corteo! Stiamo entrando nel loro corteo! Noi ci troviamo in piazza Portello, fino a poco fa c'era un ambiente, vabbè, un poliziotto l'ha detto in maniera un po' sprezzante, da catechismo, in realtà era una situazione abbastanza festosa con i pacifisti, moltissimi con il volto tutto colorato di bianco, con la chitarra, si suonava Dio è morto, bella ciao. Adesso c'è una situazione di leggera tensione, ma più che altro preoccupazione, perché è stata data un'informazione sull'avvicinamento in zona di gruppi di vandali che avrebbero devastato alcune vetrine. Questi pacifisti, sono 200, bloccano l'entrata anche dei vari cittadini che vogliono entrare nella zona rossa. Sappiamo che un gruppo poco fa si è spostato verso il varco di via Garibaldi e l'azione è sempre quella, mani in alto, musica e seduti per terra a bloccare il varco. Vi segnalo che in questo momento ci dicono che Piazzale Kennedy, la zona in cui c'è il social forum, ci sono stati dibattiti, eccetera, sarebbe praticamente bloccata dalla polizia. Non abbiamo però precise informazioni su questo. Scaramucci, io ho visto in agenzia che a Piazzale Kennedy è arrivato poco fa un folto corteo che raccoglieva esponenti dei Cobas, manifestanti dei Cobas e del Network per i diritti globali, che hanno percorso da Piazza Tommaseo, che era nella zona degli scontri, si sono poi sganciati, hanno percorso via Nizza e sono arrivati in Piazzale Kennedy in un corteo pacifico e senza alcun incidente. La gabbia dove c'è contatto in questo momento è quella di Piazza Dante, dove ci sono attacchi e altri gruppi, ma tutti molto scherzosi, che prendono in giro la polizia, gli fanno vedere degli specchi e gli dicono guardatevi come siete brutti, però per adesso hanno reagito un paio di volte con gli idranti, ma è stato tutto quello che hanno fatto. Sono riusciti a fare passare quelli di attacchi un grande gruppo di palloni, di palloncini gonfiati, e i poliziotti l'hanno preso, ne hanno fatto saltare qualcuno, ma niente di che. Siamo in corso Aldo Gastaldi, dove si incontra con via Montevideo, che porta sostanzialmente verso Brignole. Io davanti a me ho una Fiat Brava, ho per me quello che ne resta, completamente carbonizzata. Vicino a lei c'è un computer, anche quello carbonizzato, mentre mi sposto un pochino verso la destra vedo un'altra Fiat che sta fumando, stanno appena spenta i vigili del fuoco completamente, sono due macchine che sono esplose letteralmente diciamo una mezz'oretta fa, quando una parte di manifestanti che non sappiamo identificare come appartenenza di gruppo hanno distrutto anche la vetrina di un ufficio per l'affitto delle macchine, tirato fuori, distrutto anche tutti i computer. Devo dire che ci sono anche delle presenze particolari, comunque sia dei personaggi che incitano a incendiare le macchine, a incendiare i cassi. Oh,